libro offre un panorama sull'economia agricolo italiano per discutere quello che interpretiamo come il suo paradosso centrale, cioè il fatto che da una parte la forza lavoro di origine straniera, cioè lavoratori che non hanno la nazionalità italiana, ormai costituisce un elemento fondamentale per la competitività produttiva del settore, ma dall'altra parte i stessi lavoratori migranti sono la categoria la più emarginata e discriminata dal punto di vista economico, sociale e politico. Quindi il vostro è un saggio, una raccolta di studi che sono già parecchi anni che compiete sul campo e anche i vostri pensieri su questo mondo, il mondo dei braccianti agricoli che si concentrano in parecchie zone d'Italia. Assolutamente, allora il libro conta 10 capitoli, la maggior parte di essi si concentra sui cosiddetti studi di caso, dal nord a sud, cioè dal Piemonte alla campagna, e sono scritti da esperti che hanno una lunghissima esperienza sul campo. Poi abbiamo 2 capitoli che parlano della globalizzazione della filiera agroalimentare e un altro capitolo che ragiona sulla vulnerabilità socio-giuridica dei lavoratori, cioè con una maggiore attenzione per i cosiddetti braccianti, i lavoratori che ogni stagione assumono un lavoro temporaneo nei vari distretti agricoli per raccogliere i frutti e le verdure che finiscono sul nostro tavolo. Che poi vengono reclutati e sono di parecchi paesi, sia europei che africani. Sì, effettivamente il tema è questo, cioè da 10 anni ormai una costante del cosiddetto Made in Italy agroalimentare è la crescita della forza lavoro migrante vulnerabile, cioè su milioni di lavoratori assunti regolarmente un terzo, cioè intorno a 300.000, non ha la nazionalità italiana. Parliamo di lavoratori con origine rumene, bulgare, ma anche africane, sudanesi, maliani, eccetera. Secondo gli ultimi dati della Fly CGL, ben 108.000 di essi si trovano in una situazione di estrema precarietà. Sono sfruttati dal punto di vista economico, sono emarginati dal punto di vista sociale e sono esclusi dal punto di vista politico. Questi dati dimostrano che lo sfruttamento non è un elemento marginale di un sistema economico che è sano nella totalità, ma che costituisce un fondamento strutturale del sistema agroalimentare attuale. Che poi si concentrano in alcune zone perché lì c'è l'agricoltura di tipo industriale, quindi hanno bisogno di manodopera a basso prezzo. Ma di questo sfruttamento volevo parlare con te un attimo della questione del gale. Se partiamo dall'ex ministro dell'agricoltura Martina, che ha portato il reato penale al capolarato, a parlare anche dell'ultimo decreto Bellanova che lei aveva promosso come il decreto che avrebbe dovuto riportare nei campi i migranti che erano fuggiti a seguito della prima esplosione dei focolai della pandemia. Allora, i dati di oggi si dicono che solo il 15% delle poche domande sono state fatte in agricoltura, cioè in totale si tratta di 30.000 domande per la regolarizzazione lavorativa, cioè che non rappresenta nemmeno un trentesimo della forza lavoro totale, solo un decimo di quella straniera. Ma per me la regolarizzazione proposta dal governo precedente è stato un flop prevedibile per 2 ragioni. In primis non prende atto della trasformazione netta che si è concretizzata negli ultimi anni nella forza lavoro stagionale, perché un segmento crescente dei cosiddetti braccianti ormai è costituito da rifugiati, richiedenti asilo che cercano di costruire un modo di sussistenza come lavoratori agricoli nell'assenza di un sostegno da parte dello Stato. Okay, oggi il 40% dei lavoratori stranieri all'agricoltura ha un permesso umanitario o lo status di rifugiato, e quindi queste persone ci pensano prima di cambiare motivo del loro rifugio in Italia per essere considerati nei fatti come migranti, e economici, ok? Sono rifugiati che in assenza di un aiuto dello Stato devono trovare un modo di esistenza, per esempio nell'agricoltura. E se assumono questo contratto come loro principale fondamento per la residenza, per il permesso di soggiorno, rischiano di trovarsi per strada dopo 6 mesi senza un regolare permesso di soggiorno. Ok, quindi questo è un vero problema. L'altro problema è che le pratiche sono state lasciate tutte in mano ai datori di lavoro e quest'ultime quindi vengono dati il potere di poter scaricare sui migranti non solo il costo della loro regolarizzazione residenziale, ma anche di tutto quello che riguarda la riproduzione della forza lavoro, cioè la casa, i servizi amministrativi, sociosanitari, il trasporto, eccetera. E visto che i braccianti pagano già di caro prezzo tutto questo, la maggior parte si è rifiutato di assumersi anche questo costo della regolarizzazione. Che tipo di situazione c'è nel resto dell'Europa? Confronto al resto dell'Europa, l'Italia ha questa particolarità dell'emarginazione geografica molto grave dei lavoratori stagionali. Conosciamo tutti i ghetti di Borgo Mezzanone, di Rignano Garganico, ma anche nel Saluzzese, saltano ovviamente agli occhi. Però questo non vuol dire che in Europa e in altri paesi europei la situazione è migliore. Io ho diretto un progetto comparativo tra Italia, Belgio e Svizzera. Insieme ai miei colleghi ho osservato che le stesse dinamiche di emarginazione, di esclusione, di sfruttamento esistono anche negli altri paesi e questi dati confermano che lo sfruttamento della forza lavoro migrante è effettivamente una parte, un fondamento strutturale dell'attuale sistema agroalimentare in Europa, non solo in Italia. Quali armi abbiamo? Che soluzioni? Possono emergere o sono emerse a voi ricercatori per combattere questi problemi? Allora, per noi esistono tre strade per un futuro più sostenibile. Innanzitutto bisogna sottrarre la lotta contro l'intermediazione informale del lavoro, cioè quello che in Italia viene chiamato caporalato, dalla prospettiva esclusiva penale. Negli ultimi anni si è costruito un percorso delle leggi, delle indagini, dei processi che si concentrano soprattutto sull'aspetto illegale e criminale, purtroppo con scarsi risultati sul livello strutturale, cioè di come è organizzato il sistema di produzione agroalimentare. Se c'è un nesso che unisce tutti i capitoli del libro è quello di osservare che il caporalato è solo la punta dell'iceberg, anzi è la conseguenza di un sistema economico che è usato su una corsa al ribasso, sulla disparità e la disuguaglianza. E purtroppo la tendenza politica degli ultimi anni di navigare di emergenza in emergenza, per dire la crisi, sentiamo parlare della crisi dell'immigrazione, la crisi del Covid, eccetera, ha completamente oscurato le politiche attive sul lavoro. Okay. Questo secondo noi è un primo elemento, tratti più sul lavoro e non soltanto sull'aspetto penale. Un secondo elemento chiave, secondo noi, è la ripartizione del reddito agricolo. Oggi il capitale generato nel settore agricolo si accumula soprattutto nella logistica e nella grande distribuzione, cioè nei supermercati, no? Sì. E al produttore arriva un percentuale misero, 1-2%, quindi 1-2 centesimi sull'euro che paghiamo per la nostra scatola di pomodori. E con questo ritorno gli agricoltori devono ancora pagare i lavoratori, l'affitto del terreno, eccetera. Finché le grandi catene di distribuzione non hanno capito che bisogna ripartire questo reddito, e siccome stiamo pulendo la cucina con il rubinetto aperto, come si dice dalle mie parti. E qui il terzo elemento chiave, secondo me personalmente, riguarda la politica attiva per le abitazioni. La carta di soggiorno, la residenza, ormai è diventata un'arma di esclusione e di sfruttamento. Invece bisogna creare delle politiche attive per dare la possibilità, soprattutto ai lavoratori stagionali, di potersi stabilire nelle zone dove contribuiscono alla produttività, che agricola, dandogli delle case degne, dignitose, dare la possibilità di rinnovare le carte senza nessun ricatto e dandogli una vita dignitosa che un cittadino deve assumere in questo ambito se viene considerato come un soggetto che contribuisce fondamentalmente al welfare, al benessere nazionale.